qualcosa da aggiungere Io a Marco sono Marsalis? incantata da Mario Salis, quindi veramente la parola alla musica con la M maiuscola. Vi ringrazio, beh, vi dedico una canzone che si chiama Io t'amo infinito. Grazie ancora, Mario. Dimmi tutto anche nulla, quello che hai nella pancia, che la mia mano accarezza, come fa il vento la brezza. Dimmi il nero profondo, il viola scuro dipinto, dimmi voglio sentire ad alta voce il tuo dire, lungo il canale mia lucciola, mi inventerò una favola dove potrà ormeggiare nel mio porto il tuo cuore. Libera l'anima, amore, sputa il rospo, il dolore, spogliati di ogni tristezza, nuda presentati al sole. Io t'amo infinito, io t'amo infinito, io t'amo infinito. Io t'amo infinito, io t'amo infinito, io t'amo infinito. Va va va vai, va vai, va va va va vai, va va va va vai, va va va va va vai, va. Vai vo va va vai va, vai vo va va vo vai va, vai vo va vo vo vai vo, vai vo vo vai vo. Nel silenzio diamanti, i tuoi occhi profondi, prima che sia troppo tardi, disegnami i tuoi sogni. Io sono qui con le briciole, voglio vestirti di nuvole, da morire ti amo, anzi da vivere fremo. Scatena il fuoco anche l'aria, tutti i tuoi venti e la storia, che fanno di vita prigione, un ramo secco, un arpione. Che tu ti meriti luce e anche l'ombra l'estate, tu sei il mio oro e risplendi quando mi scopri i tuoi mondi. Io t'amo infinito, io t'amo infinito, io t'amo infinito. Io t'amo infinito, io t'amo infinito, io t'amo infinito.